quante devi alzare e batterle a tempo su Fammele Sentire. Apri la tua mente, e questo è il tuo momento. Su, apri la tua mente.